insomma, non mi ha ancora detto chi batterà i pezzi questa sera. Forse qualcuno l'ha già capito. C'è un corteo per una ragione, per una nobile causa, una manifestazione per un qualcosa che potrebbe appassionare anche Don Quixote. Beh, lo troverete lì. Prima fila. Come un passion fruit maturo, scivola veloce in mezzo alle griglie dei controlli. Vetrina da bravo ragazzo. Beh, costui si chiama Hank. Addormentatevi tutti e svegliatevi quando lui dirà la prima parola. Inizia e smetto quando vuoi. Entra la corte, esamina il caserio e gli domanda se si era pentito. 5 minuti m'avessero dato un altro presidente, avrei ammazzato. Lo conoscete voi questo pugnale? Sì, lo conosco, c'ha il manico arrotondo nel cuore di Carnot. L'ho penetrato a fondo. Li conoscete voi, vostri compagni? Sì, e li conosco. Io son dell'anarchia, Caserio fa il fornaio e non la spia. Bye. Esker.